Viviamo in un mondo che ci è sconosciuto, un business di persone che chiedono aiuto. Noi a guardare senza reagire, stiamo fermi a commentare senza capire perché non facciamo niente, perché vediamo diversa questa gente. La gente sa, ma non la fa. Basta poco, un piccolo gesto per sentirmi più onesta. E questo mondo va in rovina. Ignorare ci rende comici, e sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. Questo mondo va in rovina. Ignorare ci rende comici, e sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. Paese in condanna, tutti giù da una fede, la loro vita è un dramma e troppe promesse a cui si crede. Pochi diritti, solo interessi, per un pugno di soldi non si fanno progressi. Se non avete rispetto per i vostri compagni, dormite pure voi che avete ancora sogni. Sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. Questo mondo fa rovina, ignorare ci rende complici. E sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. La gente sa. E sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. Questo mondo fa rovina, ignorare ci rende complici. E sulla strada una bambina, un suo sguardo può coinvolgerci. Rispetto per i vostri compagni, dormite pure voi che avete.